Rovesci24. Buonasera da Marta Cagnola. E da Giulia Crivelli. Subito un'avvertenza, questa è una di quelle puntate in cui sbrodoleremo innamorate fino alla fine della puntata, perché dobbiamo parlare di un anniversario importantissimo, di personaggi straordinari. Uno di loro recentemente è stato anche intervistato da Giulia. Giulia, ti prego, racconta cosa hai combinato la settimana scorsa, 10 giorni fa. Sì, è stata una cosa stranissima. Sono volata praticamente dall'altra parte del mondo per fare un'intervista ad Antigua, dove c'era un circuito di barche d'epoca sponsorizzato da un marchio di orologi. Si può dire, perché anche un articolo che è uscito ieri su Sole 24 Ore, Officine Panerai, che però hanno anche restaurato, mettendoci 5 anni in un cantiere di Viareggio, una barca del 1936 che però nell'82 era stata la barca su cui, barca d'epoca, due alberi di 23 metri, era stato girato Rio. Il video dei Duran Duran, che dava il titolo al loro secondo album e che li aveva un po' consacrati. E quindi tu hai intervistato, adesso le nostre coetanee impazziranno, ma tu hai incontrato Simon Le Bon. Oh Simon, c'è un po' di panza Simon, però è molto simpatico, sorridente, solare, sereno, ironizza sul suo passato, sulle sue difficoltà. Se volete andare sul sito del Sole 24 Ore /Moda24 c'è anche l'intervista. Ma non ce la possiamo perdere, però io adesso farei un salto indietro. Io qualche istante fa, prima che partisse la sigla, ho chiesto in regia a Roberto Scaltritti in che anno è nato. Lui è nato nell'84, quindi non c'era ai tempi di questo LP straordinario. Stiamo parlando appunto intanto della canzone Rio. La genesi di questa canzone è stata raccontata un po' di tempo fa in un documentario della BBC. Siamo andati a recuperare le voci di questo racconto. Intanto sentiamo come lo descriveva Nick Rhodes. See, this sound at the beginning was complete experimentation. I'd been fiddling around with the grand piano at Air Studios, and I'd actually opened up the top of it and I was fiddling with the strings. I got some metal rods and I threw them onto the strings of the piano, and they bounced around and made this strange noise. And it wasn't quite what I was looking for, but there was something interesting about it. And I said to Colin Thurston, can we reverse that tape? Because at that time we were just discovering things like tape loops and reversing and slowing things down and speeding things up. And he said, sure. And we reversed the sound. And what we got was the very intro of Rio. Ai tempi della dicotomia Duran Duran Spandau Ballet sembravano musica davvero molto popolare, invece con gli anni sono stati, secondo me, giustamente rivalutati, perché c'era grande sperimentazione. Intanto Nick Rhodes l'ha detto, complete experimentation. E poi con questo bel accento, loro sono di Birmingham. Nick Rhodes era l'uomo delle tastiere, un serissimo musicista, appunto. Certo, quello era l'anno un po' dell'inizio della musica elettronica. Forse era l'eyeliner che ce lo faceva sembrare, le mesh ce lo facevano sembrare un po' più fatuo. Tant'è che ci racconta che aveva questo grand piano, cioè un pianoforte a coda, quindi tra le sue tante tastiere non aveva solo il sintetizzatore. A un certo punto he was fiddling with the strings, giocherellava con le corde del piano, lo teneva aperto e ci buttava giù delle cose, perché poi lo sappiamo, insomma, quando si crea musica si parte magari con uno scherzo, quindi was complete experimentation, butta questi rods, questi pezzi di metallo, le strings fanno degli strange noise, they bounced around, questi pezzi di metallo. E lui è molto incuriosito e poi gioca anche con le altre persone in studio a, naturalmente, poi diciamo elettronizzare o comunque aiutarsi con la tecnologia per creare qualche cosa da questo strano suono. Con questi time loops, cioè i pezzettini di musica, diciamo, che vengono ripetuti in loop, quindi ad anello, oppure rallentavano, lo facevano reverse al contrario, e poi a un certo punto, ecco, what we got, cosa è venuto fuori, what cosa we abbiamo got avuto. Was the very intro of Rio. Qui notiamo ancora una volta questo utilizzo molto inglese di the very, perché letteralmente sarebbe la molto introduzione di Rio, che naturalmente in italiano non possiamo dire. Il significato è: quella era proprio l'introduzione di Rio. 1982, io ero davvero minuscola, però già ero convinta che il più bello dei Duran Duran fosse John Taylor. The beginning of the song, you know, that groove, you know, Roger started playing a groove with that, and we sort of built the song around that line, so we started to think in terms of chords. the inspiration for me as a bass player was Bernard Edwards, the player with Chic, and a lot of his lines really caught my ear, and that was what made me want to play bass. And it was a very syncopated style, which was something new to me, especially as I'd sort of been playing in punk rock bands, was where everything was straight. So Rio was like just all of those ideas that I had about syncopation. And then when we get to the chorus, it's still like a... Vabbè, abbiamo capito da questo giro di basso, John Taylor era il bassista, che però ci spiega un po' come era stata l'interazione tra lui e Roger, perché ricordiamo c'erano tre Taylor, John Taylor, Roger Taylor e Andy Taylor. Allora dice, cosa stavano facendo con Roger? E comunque i bassisti, pensa anche ai bassisti di Dire Straits, fascino particolare, lui è il più tormentato, ma è anche secondo me era il più bello. Io ero arrivata a fotografare quando facevano i video, a fare la foto al video su MTV per avere una foto di John Taylor. Vabbè. Era così, funzionava così all'epoca. Quindi Roger, che invece suonava la chitarra, anche Roger started to play a groove, cioè un motivetto, e lui dice we build the song around that line. Lui aveva un'ispirazione, un personaggio che lo ispirava in questo stile di basso. Sì, all'epoca erano anche gli Chic, naturalmente band importantissima del periodo, anzi un po' precedente. Ben Edwards era uno delle sue inspiration di John Taylor, e quindi Lot of His Lines, quelle che poi le lines per gli scrittori sono le righe dei loro libri, per i musicisti sono i grooves o le note, ecco, qui c'era John Taylor traeva ispirazione, caught his ear, avevano catturato il mio orecchio, cioè avevano colpito il mio orecchio. A differenza di questo suono che era tipico delle punk bands del momento che spopolavano in Inghilterra, lui invece aveva rubato un po' questo stile sincopato. Quindi lui dice questa cosa che abbiamo trovato un po' per caso, in realtà alla fine erano all of those ideas I had about syncopation, che con cui si voleva un po' staccare appunto dal suo passato invece di punk rock bands, dove everything was straight, dove tutto invece sembrava, almeno così lui se lo ricorda, più dritto, più chiaro, invece lui voleva queste interruzioni, questa syncopation. Che ci ha fatto sentire? Ma noi torniamo all'inizio, torniamo a Simon Le Bon, da questo documentario della BBC, ecco come raccontava lui quel periodo. We knew when we got together in the room and started writing songs together that we had something special, that there's something in the chemistry of us that was able to come up with more and more and more music. We had a lot of material that we hadn't recorded, an awful lot of material. The first album, Duran Duran, had two hits on it. We had three singles released. We were signed by a record company. We'd been on tour with Hazel O'Connor. We were just starting, and we'd gone to America. And we were causing a big stir. So we knew something was really brewing. It was bubbling up, you know. Simon Le Bon racconta quello che era successo in quel periodo e anche con l'album immediatamente precedente. C'era un piccolo estratto di Planet Earth all'inizio, se l'ho riconosciuta bene, e loro avevano veramente l'impressione che stesse succedendo qualcosa di importante. Sì, adesso non per autocitarmi, è una citazione di Simon, però se andate a vedere l'intervista che trovate online sul sito del Sole 24 Ore, lui appunto ricorda e spiega come all'epoca era tutto diverso. Loro volevano suonare, non volevano essere famosi, volevano appunto get together in the room and start writing songs together. Avevano questo, era la passione, e poi gli esplosa questa cosa e ci racconta appunto gli inizi, perché si sono resi conto che in realtà sì, erano cinque amici che si divertivano, però they had something special. Con questa chemistry lo troviamo sempre, questo sostantivo. Abbiamo detto, quando è uscito Rio, già era uscito Duran Duran, il primo album, e si capiva che c'era questo grosso successo che stava per scoppiare. E dice, tutto sommato, era come se ci dicesse, ci è venuto anche abbastanza facile fare il secondo album, because we had a lot of material we hadn't recorded. Cioè loro per il primo album, Duran Duran, avevano in realtà, perché solo a quel punto avevano avuto un contratto, però era tanto già che suonavano insieme, avevano an awful lot of material, anche qui espressione molto inglese, letteralmente è un'orrenda quantità di material, ma in questo senso non è orrendo, ma tanto, tantissimo, ne avevamo da far schifo, da buttar via, tanto ne avevamo. Allora il tour, erano addirittura stati mandati in America e sapevano, poi nelle ultime parole ci sono delle espressioni carinissime, they were causing a big stir. Big stir, stir vuol dire anche mescolare, quindi vuol dire che stavano rimescolando qualcosa, ma non soltanto. We knew something was really brewing. Brewing vuol dire bollire ma anche fermentare, tant'è che la birra per esempio è brews, perciò che qualcosa stava fermentando ma non gli basta ancora per renderci l'idea. l'idea, ci dice something was bubbling up, cioè stavano venendo fuori le bollicine, perché effettivamente, vabbè, l'82, poi io 69, quindi 13 anni, però già lì il fenomeno era appunto esploso, e nei successivi 3-4 anni, altro che bubbling up, vi ricordate le scene a Sanremo, insomma tutte le volte che venivano in Italia. Ah, approfitto per dire che saranno in Italia a Roma, Cattolica, Lucca e Verona a luglio. Beh, sicuramente andiamo, Giulia. E inaugureranno le Olimpiadi di Londra. Inaugureranno le Olimpiadi di Londra, infatti volevo dire, dopo 30 anni sono ancora lì a bubbling up. Beati loro, peraltro, con grande simpatia. Giulia, hai finito il nostro tempo per questa serata dedicata ai nostri straordinari Duran Duran. Io mi sa che andrò a recuperarmi, io me lo riascolterò di nuovo stasera. Ringrazio Roberto Scaltritti in regia, vi ricordo l'appuntamento con English 24 in edicola da Marta Cagnola. Giulia Crivelli. L'augurio di una buona serata.